diabete, sto cazzo. Sarrasso in mano. Non so il passo che rifare di questo tipo, là, cazziato. Se mangi l'avevo immaginato che era cannone. E mo vige la legge del più grande. Mo vado a mio secco. Quando mi sorpassa non mi fa più. Se no mi passava una corsia su. Stava via, dico, passavo io un'ora e mezza. Ma non in qua da l'autoevo. Si cristiane pensa che stanno in magretta, vedi? Arriva nel covettinchione andando. Cosa dico, cosa dico? Mi fanno già faticare il lavoro umano. Siamo domani con niente. Aspetta un attimo. Ma io non ho franca mi dice per me, ma a parte solo riempi, a cattare questa è una centro commerciale qua. L'Ikea no? È grosso l'Ikea, l'Ikea è enorme. Deve ne fare due o tre piani. Sante cose hai in ristorante? Cappa cappa. Ma mi sa che l'hanno chiuso, ma stanno aperta. Come? Mi sa che l'hanno aperta. Cappa cappa. E poi si può stare a perché ci puoi ci blocchi come a compagno. siamo le 3 di notte. Metrodromo Giarrus, scaricati ai genni. Ah, vi manda pure questi messaggi. Oh, eh? Un giorno che è venuto è fatto un disastro. Cosa sono assai, allora? E allora, ora è chiamato ora ormai è trasso da quella fase, l'ho regalato un pochettino, la fase con i piccini che nasce lì giù, ho visto lo fanno un cazzo più o meno come quando si veste per venire a fatiare, ma si tenta di venire a fatiare, non c'è più. Avere una macchina natura tra cibo e gusto, chi cazzo che si vuole stamattina. Thank you. Torino Pisbella. Attento la Torino Pisbella. Estoy clavando aquí de la más clavando la parte de atrás, la vas clavando en el puente ahí. Aló, 10, aló, 10, 10, 10, 10. Non sono per queste cose. piace vai, ti diverti, facci un paio d'ore, tanto mi pare sia fino alle 11, fino a mezzanotte, fino a mezzanotte, capito? Cosa vuoi va? Mi? A voi che? Mi dà più burro vero, no? Ci ha rimesso la serata, ma questi da dove ce l'hanno il cervello? Vabbè, la vedica, a me chi me la paga vada gliela faccia, a meno che non sia una beneficenza la cosa che voglio fare io, allora è diversa la cosa, allora è diversa, lo metto io, però a me di andare a lavorare gratis, paghici cagoni, io non ci vado. Perché io la roba l'ho pagata e ho sputato sangue, mi dispiace. Ah, ma cos'è tanto 80 euro, voglio, se non andano e si ammazzano. Sì, ma penso che sia quello il prezzo onesto, non è che stai chiedendo chissà che cosa, penso che sia quello, non so, io me intendo, non so cosa dirti, però se il prezzo hai fatto quello lì, vuol dire che è quello. Claro, è quello sì, cioè, tu devi arrivare lì, cazzo parlano la roba della macchina, piazzati tutto, cioè, ragazzi, non è lo figlio di casa, no, cazzo, cioè, tu, io un giorno te lo faccio vedere, assisti alla scena, cioè, cosa ci vuole a piazzare la roba, a scendere dalla macchina e tutto quanto. No, non stiamo parlando di Cipituno, cioè, a me non guarda, per montare, cioè vi vuole, ma con una mezz'oretta ci vuole, proprio per montarla semplice, se comincia a punire luzzi, comincio a mettere macchina di fumo, tutto vivo più di un'ora, piazza tutto canto, perché poi devi passare bene i capi, devi fare bene o devi fare il lavoro. C'è una serata più importante, oltre il karaoke, dopo un po' musica discoteca, cazzo! E ci vuole tempo, ci vuole, ma con l'ora va a punire tutti i capi, beh, per piazzarlo, per accettarlo. come le faccio io. La gente vuole troppo. Cioè, il professionista può pagare minimo per fare tutto, meno di 100 euro non se può fare, non se può fare. Ma a te chi te la porta la roba? Se tu macchina non ne hai, frattente non ne hai, chi te la porta? Quindi devi pagare anche per farti portare la roba. Beh, certo. Arrighi, cioè, si trova di valore, a Bannuca. Vabbè, diciamo, lo dico a Edo, o lo dico a Babbo, che cosa però gliela devi sempre dare? Quelle 20 euro, 30 euro gliele devi dare, che lui è stato al tuo servizio. Cioè, se io devo portare tutta la roba mia al completo, cazzo, io meno di 100 euro non la posso fare esagerata. Cioè, ma sto scherzando. Cazzo, comincia a mettere, cazzo, la barra delle luci, le due teste mobili, quelle che girano. Cazzo, ve ne poco in roba. Oh, oui. Cavi di tutti i generi. Cazzo, fascetta tutto. Cazzo, ci vuole lavoro, me. Attaccare casse, tutto. No. E la musica chi la mette? La musica la metti tu dal computer? Eia! Quindi devi rimanere tutta la gira anche io, pronta cantivo di ciò. Senti, capite già, secondo cazzata, pensamento a mezzanotte. Cazzo, devi rimanere tutta la gira in chibi, poi di notte. Devi rimontare tutto. Rimontare tutto e metterla dentro le cassette, e cazzo mi ha casino, no? Guarda, meno di 100, ma proprio 100 tirando, se no sono pure 120. Allora io ti dico che ho visto uno produttore che faceva queste cose, ma ti parlo di qualche anno fa, e prendeva 150 euro a serata, capito? 150 euro a serata, piazzando questa cosa, facendo karaoke, eccetera. Poi ce n'era uno, addirittura ne prendeva 250 a serata. È preso giusto. Poi ti dico un'altra cosa, da Ilaria, che l'anno scorso l'hanno fatta, qualcosa del genere, erano in due, hanno voluto 300 euro. Beh, dipende sempre che cosa fai, dipende, perché se solo karaoke è un prezzo, se devi fare karaoke e musica c'è un altro prezzo ancora, perché devi montare luci, devi fare proprio di casino. Oh, cazzo, mica ho preso un bellinare, come? Cazzo, non ti voglio dire quanto c'è, se non ti assusci. Non mi ricordo, comunque cantavano, erano in due, cantavano, c'era la pianola, la cosa, insomma, un po' di attrezzatura. Per 100 euro, 150 euro a testa hanno preso, capite? Piazza Italia, anzi via Roma, non Piazza Italia. Andrò via Piazza Italia. Perciò penso che il prezzo tuo sia onesto, penso, io per effetto non me ne intendo, però mi pare sia così. Allora, se hanno suonato, il prezzo non è neanche tanto. Se hanno suonato dal vivo, il prezzo non è neanche tanto, perché chiedono molto di più, chiedono. Sì, suonato e cantato dal vivo. Tutti e due, no? Chi c'era la chitarra, l'altro la pianola, poi si alternavano, tutta musica loro. Sì. Mettevano solo la base al computer, capito, e basta. Sì, no, Gianni Civera Groi, lì l'hanno trattati anche troppo bene, perché se tu devi fare una cosa così, quando uno è musicista si può pagare, non si tratta solo di karaoke, no, e non che molto di più il prezzo, ma comunque li hanno trattati bene, la verità. Sì, infatti ne sono stati vari chiamati, poi vabbè, c'è stato problemi col Covid, queste cose, insomma, non si poteva più fare. Adesso mi sembra che li va a richiamare di nuovo, non so. Scappa. E così è. La gente sta impazzendo, sta, e sai qual è il problema, sai che cosa è? Che ci sono troppi cagone ci sono, e si mischiano e fanno casini, cioè, A me le basi, non ho il cazzo cra. Io per caricarmi tutte le basi originali, quelle che posso usare, ci ho voluto dire 150 euro, me. Non è che me le hanno regalate. Sì, ma c'è un show, quello c'è un show che costa un sacco la attrezzatura, non è che non lo so. È che non me ne intendo, non è il mio coso, il mio settore, il mio genere, insomma. Di quanto possa costare una serata, là. Però mi ha detto mia figlia, non ti chiedono meno di 300 euro. No, ma è così, è quello il prezzo è così. Purtroppo, ma mi sembra anche giusto, cazzo, quindi sono pure un drava niente. Sta piazza tutto canto, a fa lui. Adesso ce ne vuole di gozzo. Purtroppo è così. Vabbè, allora se vuoi va. Babbo, quanto ti lascio che vado a annaffiare un po' fuori, così prendo un po' di aria fresca. Già ci sentiamo. Ok, intanto sono già le 7:10. Yeah, ciao, ci sentiamo. Ciao. Non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non vo scala è? Io c'ho il pannello. Staccate la potenza, dai, anche un chilo, guarda. Avanti, chi sta consumando corrente? Ma tanto la lui ha la corrente, quindi cosa consumo? Buonasera, va bene, va bene. Intanto la corrente si paga, per forza bisogna pagarla. No, io c'ho il pannello. Il pannello c'hai? Dove hai messo il pannello? Sul tetto? Sì, sì, sul tetto. No, no, no, io non voglio pannelli sul tetto. Meglio pagare la corrente a Veneto. Ah, quello già è vero, già è vero. Allora sì. Allora stai parlando? A Papatango, sono Franco, operatore Frank. Frank di Papatango, molto bene, ciao Frank, Claudio da Sassari. Va bene, là, sono entrato per salutarci, ok? Va bene Frank, ti saluto anch'io allora, ciao, buonasera. Ciao, ciao. Attento, Natalino Procoma, Ascolta qua, il tuo garage è stato, quanto ti sta arrivando? Mi sta arrivando Santiago 8, un ultimo segnale. Adesso Santiago 5. E tu sei 9-10. È un ottimo segnale, cioè, perché io non abito a Sassari, capito? Sono fuori Sassari, 4 km, verso la zona di Osilo. Però arrivi molto, molto bene. Ma della zona dei Monti Bianchi, già lo so. Sì? Sì, nella zona Filighedra, diciamo, quella zona lì. Va benissimo, sei una potenza. Anche tu arrivi molto, molto bene, molto, molto bene. Va bene, ti ringrazio. Ok, ciao, buona cena, se ancora non l'hai fatta, ci sentiamo le prossime. Ok, ciao, ciao. Come va? Meglio di così non si può. Bella giornata fresca. Adesso domani dice c'è di nuovo 36 gradi, 34 gradi, ma vaffanculo. Oggi si stava da Dio veramente. Senta, la testa va bene. Stava che ti ho vendo stamattina. C'era un bel freddo, c'era un bel fresco. Era con la finestra aperta qui. E siamo bene in camera da letto. E anche adesso c'è fresco, bello, bello, bello, siamo 24 gradi, benissimo si sta, stanotte si dorme come un ghiro. Meglio così, e Massimiliano è entrato? No, non ho sentito per niente, la verità oggi non ho sentito nessuno, stasera nessuno, cioè deve essere festa lì vicino a casa di Gianni, via Maldetta, devono essere tutti lì a cantare. Come la questura. Come in questura. Alessio è ubriaco fragico. Ciao Atari. Ciao Antonello. Già arrivi così da un grosso Vittorio Emanuele. E allora? Tutto a posto, tutti c'erano. No, mancava Antonio. Nando ci ha fatto la lezione oggi. Benissimo, benissimo. Ascolta, il califfo sta aprendo. Come? Califfo sta venendo? Era con me. Bene, bene, bene. Ok. Kappa kappa. Ma si andava a cantare in via Valdetta? Beh, cosa che canta in Gianni o Piorù? Gianni deve andare in questura a cantare. Ha detto che è nata un barco. Aspetta, stai attento, non arrivi Francesco Baule, sindaco di Osio, perché cade tutto. Allora, l'hanno dato una faccia sui cudi. Lo solo, voi coronini, tutto, tutto. Gaggio microfono, crolla tutto, crolla. Attenzione. Cazzo, se sale dottor Baule, anche le tavole ne cadono. Allora, giusto in televisione, io già videolina. Commissario dell'Agris, mamma mia. Ma manco i viori cresci di bianchi sul gambo. Sant'Antonio mio, fin se la di arriva si seccano, vai Antonio. Allora, uiuia. Ieri c'era anche un controllo qua, c'era ieri mattina, è arrivata fino alla 1, quasi alla 1 è andata a sentire. su tutto gli hanno controllato, quanta gli hanno fatto aprire tutti i cosi della dove ci sono i carburanti, a vedere quanto carburante c'era, tutto ad abbesso. La fiancia di là la prendiamo noi? Ieri mattina se la sono andate alla una, se ne sono andate, figurati. Tutto l'aveva fatto aprire, gli avevano fatto mettere i sigilli fuori per non entrare mai con la macchina, e aveva aperto tutto quanto. Se c'era qualche mancanza o qualcosa, capito? Maledetti, in quattro erano. Maria Lesco, posso cazzo, Maria. Ma in borghese erano? Io in borghese, sì. Ma che finanza è quella tributaria? Già, non sono contento perché è una persona che conosco, ma già le sta bene. È troppo mano larga, hai capito? Non è proprio niente in Chivi, tutti senza essere assicurati, tutti forfettari, fiffiti, come ti ritiedo. Sì, va bene, stavamo lavorando quei ragazzi, evidentemente erano assicurati, ma non lo so. Non gli hanno detto niente. Sono andato via alla una ieri mattina, poi sono andato da lui, cioè insieme a lui sono andato a casa sua perché lei c'aveva la parabola che non prendeva e cazzo ci ho trovato il foresta budo che ci ho trovato, e io ho detto qua non prendi nulla, ho detto ho tagli tutti gli alberi che ci sono, se no ho detto sei fregato. Dice ma come funzionava? Prima ho detto gli alberi erano più bassi, scusa, ho detto. Se ci insegna il cuscilla, arriva fino a 70-80, come si muove il rami col vento, sale e scende, gli ho detto, è inutile, bisogna che ti armi di motosega all'interno di tutti quegli alberi che ci sono, in modo da avere il coso libero, a meno che ho detto non fai una cosa, prendi una scala, fai quattro fuori nel fianco del muro sopra e ti piazzi la parabola, gli ho detto, perché la TV lì, dove sei tu, ma anche molto arriva con l'antenna normale. Ma non si è andato in paese o qua? In paese dove abita lui, quando in Giano, si è proprio in un buco, cazzo. Io non so dove abita, già ci ho lavorato in quella zona io. È un buco proprio, dove è lui, in un fosso, non si prende un accidente, non si prende. Uiuia, allora ti dai. Sì, siamo qui, io sto mangiando, e ascoltando a voi. Adesso sei rientrato. E allora, si dilungano, gatta, e dici più tardi, delle 8. Vabbè, ma tu qualcosa te la porti, devi mangiare prima delle 8 tu. Ah, mi posso nuda, va, so che arrivendi. Ce l'avevo a 110 la glicemia. Io oggi ho ritirato le analisi, grazie a Dio tutto bene. Ho dei valori bassi perché mangio poca carne rossa, ma mi piace molto la carne bianca, pollo, fetti di pollo, ricco, cipolla, radica. E mi dico, metti a mangiare un po' più di carne rossa, va bene, vuol dire arrostiremo più carne rossa adesso che carne bianca. Mangio in fritte e ali di gabbiano, grazie. Ma tocca fare un sacrificio e dalle fibre. Davvero, io sono aumentato di 20 kg, grazie. No, io come peso sono a posto. Sono 80 kg, sto benissimo. Però un bel di valori bassi. Dici mia, è a posto. Appena un pelino più del normale colesterolo, ma vabbè, quello lo so che cos'è. Sono i dolci maledetti. Adesso le diamo un taglio anche a quelli. Però per il resto, grazie a Dio, tutto bene. Devo solo aumentare un po' questi valori più bassi. Più carne rossa, più insomma un po' più di vitamina sopra degli integratori. Vediamo un po'. K, e tu Antonio, non sei uscito? No, sono entrato stamattina verso mezzogiorno, c'avevo le gambe, non me le sentivo più, a poter girare quel cavolo di parabola, a destra, a sinistra, salendo la scala, scendendo, eccetera, eccetera. E quindi, in un'occasione, le gambe mi fanno di male. No, non sono uscito per niente, no. Cane rosso, bianco, magi, cavallo, si può andare bene. Un paio di fettine di cavallo, due o tre e sei a posto, torni come prima. Ma io infatti adesso la prendo, no, perché mia figlia non la mangia, e no, non la mangia carne rossa. Mia moglie mangia poco, però mia moglie prende due o tre fettine, ma la faccio. E poi quando facciamo le arrostite, cioè facciamo salsiccione, pancetta, capocollo, però facciamo molta carne bianca, capito? Va bene, dai, vi lascio 10 minuti che ho dato a mia figlia, volevo vedere se è andato tutto bene al lavoro, ci sentiamo dopo. E io ciao, ci sentiamo dopo allora, al limite. Avanti, Natali. Dove è illegale e sono ancora male. Ci dà il retta a me, ti racconti, ragazzi di cavallo, guardi che presidimo dei pepparoni. Completamente proibito come Egitto. Era buono in frigo, candura delle cucinare già condita e via. Come stupro e incerto. Col tango. Peperone. Non me lo rimagno più io. Catta. Mi ha fatto male la bocca peperone a me, da quel giorno, niente più peperone, la carne mangia così, mangiava anche la pasta con peperone, frutta, quando facevamo le zimilate con i cibi a Ussica, mettevo un bel po' di peperone, ci passava un bocciolo del vino come nulla per non prendere fuoco. E già lo so, io lo stesso non ne posso mangiare. Una volta sono andato a casa di un amico, gatta. La mia paura. Sono andato, a questo gli è uscita la mano del peperone, sono stato una settimana con le morrughe. E me l'aveva fatto anche a me quello scherzetto. E adesso io domani, dunque, oggi mi sono mangiato i ravioli. Domani gira gira mi faccio le sardine, c'ho ancora mezzo chilo di sardine da fare, me le faccio in pentola con i pomodori a pezzi e a me lo sono buone, l'altra volta me l'ho mangiato mezzo chilo normali. Tutta la sera ero qualcosa per digerire, ragazzi, ma forse è digger. Anda bene me, da. Io me la chiudo che finisco di mangiare, cioè dopo mi curico un po' perché sono stanco molto. Ci sentiamo, Antonio, da, alle prossime con noi. E va bene, dai, ci sentiamo, stammi bene, alle prossime.